Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buon pomeriggio gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli, che hanno confezionato con me anche questa puntata, la penultima di questa serie di Nessun Luogo, e Filippo Aureggi, che è in regia. Le coordinate per interagire con noi sono il 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri sms. Twittate pure all'indirizzo Giampaz oppure Nessun Luogo 24. E cercateci, la pagina su Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Prima di addentrarci nei temi di oggi, vi ricordo fin da adesso che stiamo preparando una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano che andrà in onda da Expo, sarà sabato 5 settembre alle ore 20, orario un po' insolito e anche data un po' insolita per noi, ma sarà una puntata speciale dove avremo anche musica dal vivo e sarà tutta incentrata su storie che avvengono al di là dei nostri confini, un po' meno analisi geopolitica, un po' più storia. Domani vi darò esattamente le coordinate, comunque se vi fa piacere intanto tenetevi liberi o con l'orecchio alla radio o per venire a Expo sabato 5 settembre alle 20. Oggi dobbiamo tornare a parlare di immigrazione e torneremo a parlare di Serbia. Serbia perché questo paese potrebbe diventare, tornare a essere importante, di nuovo chiave di violino, cerniera se volete, insomma punto cruciale nella rotta migratoria dei Balcani, dopo che ieri la polizia ungherese ha usato le maniere forti contro i migranti. Vi ricordate, vi abbiamo raccontato in queste settimane della costruzione di quella rete di filo spinato che verrà ultimata in questi giorni. Vi abbiamo anche raccontato dell'afflusso di polizia di confine, appunto al confine serbo-ungherese. L'altra novità è che verrà inviato anche l'esercito, si parla di 2100 uomini che andranno ad affiancare già 1000 uomini presenti sul lungo confine serbo-ungherese. Vediamo se qualche giornale avrà ancora il coraggio di dire, come già aveva fatto con la Macedonia dà lezione all'Unione Europea, quando appunto era stato schierato l'esercito a fermare i migranti. Quella lezione di civiltà, tra virgolette, è durata appena 24 ore, perché poi gli stessi militari macedoni fecero passare a gruppi contingentati il flusso dei migranti verso la Serbia. Il problema è che adesso la questione viene semplicemente spostata di alcune centinaia di chilometri più a nord, perché i migranti continuano a fare pressioni con numeri importanti, si parla di un 3000 al giorno sul confine serbo-ungherese. L'Ungheria minaccia respingimenti, ha già usato le bombe a gas, i lacrimogeni, scusate, contro appunto i migranti. Che cosa può succedere adesso? Spostamenti di rotte molto facile, si parla già di Romania e di Croazia. Vediamo se qualcuno scriverà ancora una volta che l'Ungheria sta dando lezioni all'Europa. Sono lezioni incivili e che durano molto molto poco. Se non volete chiamarli civili, chiamiamole almeno inefficaci, perché il problema viene continuamente spostato. Duole continuare a descrivere l'incapacità della gestione europea sul flusso dei migranti, ma chi mi segue, chi ci segue sa benissimo che questo flusso era assolutamente prevedibile. I giornali internazionali continuano a raccontare questa crisi. La foto notizia sulla prima pagina del New York Times di oggi si intitola Lost on the Border, persa nel confine, ritrae una bambina di 6 o 7 anni in mezzo a poliziotti in assetto antisommossa al confine tra Grecia e Macedonia. Quel fenomeno, quello dei minori, molte volte non accompagnati, desta preoccupazione, come gridato da parecchie organizzazioni non governative. Ma purtroppo la cronaca delle ultime ore è funestata ancora una volta da immagini raccapriccianti, da 20 a 50 migranti morti soffocati dentro un camion in Austria. Era un camion frigorifero. Questa notizia in realtà svela un meccanismo, quello del probabile traffico di migranti già dentro l'area Schengen, che è un meccanismo che esiste da tempo, ancora una volta quel meccanismo, il traffico di migranti, esiste perché l'Europa non sta ancora riuscendo a dare risposte istituzionali adeguate. Non è ancora chiara la dinamica, se l'autista si fosse fatto pagare, se fosse un trafficante. Ora i cronisti e la polizia austriaca cercheranno di far luce e di dare maggiori contorni a questa altra tragedia, purtroppo, dell'immigrazione. La storia che da settimane vi racconto è una storia fatta di lunghissimi viaggi, è una storia che più o meno ha questo suono. È un suono di passi, è un suono di passi, di chilometri, di ore, di giorni e di settimane. Abbiamo fatto un esercizio che è, se volete, fine a se stesso, però è indicativo. Provate a vedere la distanza che c'è fra Aleppo e Preševo, che è la prima tappa nel sud della Serbia che i siriani devono fare. Sono 2000 chilometri e sono circa 400 ore a piedi. Perché vi parlo della distanza a piedi? Perché recentemente ho incontrato dei migranti in Macedonia che avevano fatto 9 giorni a piedi tra Salonicco e la Macedonia stessa, e avevano le scarpe rotte e i piedi sanguinanti. Da Kabul sono 5500 km, sono più di 1000 ore. Da Mosul sono 2500 km, 500 ore. Per arrivare in Ungheria, dalla Serbia, Preševo, Subotica, per esempio, sono 560 km, fanno 100 ore. Su queste dimensioni, su queste distanze, su queste tempistiche si infila lì il traffico di migranti fatturando centinaia di milioni di euro. Quanto quel muro che sta costruendo l'Ungheria andrà ad alimentare il traffico dei migranti è una domanda che io mi pongo da parecchi mesi. Allora, vi dicevo, l'attenzione si è spostata dalla Macedonia ora al confine serbo-ungherese, con la chiusura del confine serbo-ungherese e la apertura, continua apertura del confine macedone. Quello che può accadere è che per un certo numero di settimane il numero dei migranti vada a crescere ulteriormente in Serbia. Ed è lì che andiamo, dove c'è Tommaso Della Longa, che è portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa per la crisi dell'immigrazione nei Balcani. Tommaso Della Longa, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, dove ti trovi esattamente in questo momento, Tommaso? Ma in questo momento mi trovo vicino appunto al confine nord con l'Ungheria, a Kanica, sono 5 km dal confine. Che situazione c'è in questo momento al confine e se hai potuto vedere i centri per i migranti, in che condizioni sono? Ma oggi il centro di transito, perché di questo stiamo parlando, di Kanica, era una situazione tendenzialmente tranquilla, quando i nostri volontari della Croce Rossa Serba hanno fatto la distribuzione quotidiana di cibo ed acqua, ci saranno stati 3, massimo 400 migranti. Ovviamente quando le persone arrivano al nord, quindi vicino all'Ungheria, nella prima occasione possibile cercano di passare il confine. È utile ricordare che la Serbia ha da poco introdotto una misura che è molto simile a quella macedona, cioè i migranti vengono registrati, viene dato loro un tempo di 72 ore o per tornare indietro, quindi nel paese da cui sono venuti, o per proseguire. Che cosa sta facendo la Croce Rossa Serba per fronteggiare la questione immigrazione, che mai come quest'anno per la Serbia, che è un piccolo paese, non era assolutamente abituato a ricevere un flusso così alto, sta facendo? Beh, la Croce Rossa Serba in realtà dall'inizio di giugno, quindi da quando l'arrivo di migranti è diventato maggiore, con numeri maggiori, si è subito messa in moto, e quindi sia a Preševo e a Mitrovac, che quindi sono i due posti di confine con la Macedonia, che nel confine della Bulgaria, perché anche da lì arriva un numero seppur più basso, ma anche un numero di migranti, e poi nel nord, appunto a Kanica e Subotica, si è messa all'opera soprattutto tutto per la gestione, la distribuzione di cibo, acqua, kit igienico-sanitari, pannolini e latte per i bambini, ovviamente all'interno della risposta delle autorità serbe, che comunque sia, insomma, hanno dato, forse io sentivo il tuo inizio trasmissione, sì. Invece di chiudere le frontiere, almeno la Serbia ha visto bene appunto di dare questi 72 ore di permesso ai migranti per transitare nella nazione, non ha chiuso il confine, anzi anche con poche risorse, anche con grandi difficoltà logistiche, perché appunto sono numeri che non si possono prevedere, sta cercando di fare il suo meglio. Ecco, in parte ci hai già illustrato quelle che sono le esigenze e i bisogni dei migranti. Le condizioni di salute nelle quali arrivano, la maggior parte di essi sono siriani, circa l'80%, dicono i dati dell'UNHCR. In che condizioni arrivano? Ma in realtà arrivano in condizioni abbastanza buone, nel senso che io ero abituato ai viaggi via mare delle persone che arrivano a Lampedusa in Sicilia, quindi a vedere i migranti arrivare veramente senza nulla, in ipotermia, in situazioni veramente molto difficili. I migranti che arrivano al confine con la Serbia sono esausti, già vengono da viaggi che possono durare 2, 3, anche 4 settimane, dipende dalle loro risorse finanziarie e da dove sono partiti, però diciamo tendenzialmente in buone condizioni. Il trend che è cambiato negli ultimi 2 mesi è che se prima venivano molte persone tra i 25 e i 35 anni uomini, ora il trend è fatto di famiglie, quindi con molta più vulnerabilità, con molte più persone che hanno bisogno, il che significa appunto donne con bambini e ultimamente anche persone portatrici di handicap. Ecco, chiaramente alcuni ve li ho raccontati in questi giorni, in queste puntate in Nessun Luogo Lontano, si vedono anche persone con disabilità arrivare dall'Afghanistan. Questo ci dà la misura, come dire, del progetto migratorio e quanto il muro difficilmente li fermerà. Questo è uno dei punti su cui non mi stancherò mai di insistere. Fra l'altro non è una questione di come dire, puro umanitarismo, se mi consentite il termine, ma è una questione anche di business criminale. Erigere un muro, la barriera serba, non fa altro che allungare la rotta, perché si parla già di Romania, si parla già di Croazia, il che vuol dire un confine in più da attraversare. Ogni confine da attraversare può valere alcune centinaia di dollari per il trafficante che decide di aiutare, ovviamente tra virgolette, i migranti stessi. L'ultima domanda per Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa, in diretta con noi dal confine serbo-ungherese. Io facevo menzione all'inizio trasmissione della presenza sempre più massiccia di minori non accompagnati. Purtroppo una delle verità di questi fatti che stanno accadendo in questi mesi è che a volte sono accompagnati e poi altre volte si perdono. Dal tuo punto di vista, da quell'osservatorio lì, la presenza di minori è massiccia e corposa, puoi aiutarci a quantificarla? Il problema dei minori non accompagnati è drammaticamente vero, non solo qui nei Balcani e in Serbia, ma in quasi tutte le rotte migratorie che noi conosciamo. Sui giornali serbi oggi si parlava di 400-500 minori in questo momento in Serbia non accompagnati. Io, se ti posso dare una testimonianza proprio in prima persona, questa mattina abbiamo incontrato una bambina che non avrà avuto più di 6 anni, che veniva dalla Siria e che aveva perso la madre esattamente quando stavamo cercando di passare il filo spinato che già c'è in alcune parti tra la Serbia e l'Ungheria. Una situazione drammatica, la bambina era da sola, fortunatamente le comunità siriane sono comunità molto forti e molto solidali tra di loro. Noi abbiamo cercato di metterci in contatto con i colleghi all'altra parte del confine, ovviamente è una situazione che è ancora in piedi, ancora non è stata ritrovata la madre, ma dà un po' il senso di una situazione drammatica di nuclei di o bambini che partono da soli, il più delle volte non propriamente da soli, magari con amici di famiglia, e oppure bambini che, come hai detto giustamente, perdono i familiari durante i vari passaggi di confine, durante questo viaggio che è pericolosissimo. Ieri a Preshevo nel sud un ragazzo di Anbar mi diceva: io ci ho messo 15 giorni a venire dall'Iraq fino a qui in Serbia, ma solo perché sono giovane e comunque sia ho qualche disponibilità finanziaria. Ho visto famiglie che hanno perso tutto, che hanno vissuto in prima persona atti di violenza contro loro stessi, donne e bambini sono le persone che pagano lo scotto più grande da parte dei trafficanti di uomini. È per questo che la nostra preoccupazione come Federazione Internazionale esprimiamo grande preoccupazione ogni volta che vediamo governi e stati che riducono barriere o mettono in piedi politiche di chiusura all'immigrazione. Come già detto tante volte, come hai detto anche tu, queste politiche danno solamente una mano purtroppo ai trafficanti di uomini e soprattutto mettono a rischio di vita centinaia di migliaia di persone. Grazie, grazie a Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa nei Balcani. Buona giornata e buon lavoro, Tommaso. Grazie a voi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, Twitter Giampaz oppure Nessun Luogo 24. Un ascoltatore su Twitter sottolinea ancora immigrazione Nessun Luogo come sui giornali, perché non parli di argomenti difficili da recuperare su altri media? Dopo ci andiamo, perché parleremo di Sudan. Siamo costretti e vogliamo parlare di immigrazione, perché è uno dei grandi fenomeni di questo mondo e sui quali c'è troppa speculazione, si parla troppo alla pancia e la si racconta molto molto male. Cerco modestamente di dare il mio piccolo contributo. Parte del contributo è la fotografia che vi regalo adesso sulle rotte balcaniche. Secondo i dati dell'agenzia Frontex, sono 340.000 i migranti entrati in Europa nei primi 7 mesi del 2015. Solo nel mese di luglio si sono registrati 107.000 ingressi, in larga parte lungo le rotte orientali. Sono 35.000 i richiedenti asilo che hanno intrapreso la rotta terrestre balcanica il mese scorso. Grecia, Macedonia, Serbia e infine Ungheria, per poi raggiungere gli altri paesi dell'Unione. La Germania prevede di ricevere circa 800.000 richieste d'asilo entro fine anno. Il governo tedesco ha deciso di sospendere le norme di Dublino 2 per i profughi siriani, che potranno direttamente fare domanda d'asilo senza dover tornare in Ungheria. Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, i migranti di nazionalità siriana lungo la rotta orientale sono più dell'80%. Il 23 agosto la Macedonia ha deciso di riaprire la frontiera con la Grecia dopo 2 giorni di scontri tra migranti e polizia nella zona compresa tra la greca Idameni e Gevgelia, in Macedonia. Oltre 7.000 migranti hanno così raggiunto la Serbia negli ultimi giorni, entrando nel paese dalla città di Preševo, dove è in funzione un centro di accoglienza. Secondo Belgrado, sarebbero 100.000 i migranti che hanno attraversato il paese da inizio anno. L'Ungheria risponde chiudendo le frontiere. È in fase di completamento il muro di 175 chilometri sul confine serbo, dove il premier Orban ha già inviato 2.100 agenti di supporto. Chiude i confini anche la Bulgaria, schierando mezzi blindati ai 4 valichi di frontiera con la Macedonia. L'Unione Europea ha già stanziato 1,5 milioni di euro di aiuti per Serbia e Macedonia. La Commissione si riunisce oggi a Vienna proprio per discutere la situazione dei Balcani. E vedremo se da questo summit di Vienna usciranno, oltre che altri soldi per i paesi balcanici toccati dal fenomeno, anche delle soluzioni pratiche, tra le quali avete sentito intanto la Germania ha deciso di fondamentalmente bypassare e abbattere il regolamento Dublino, che è una delle più grandi storture legislative degli ultimi anni, perché impone al paese che il primo paese che il migrante tocca lì di esercitare le procedure di asilo, trasformando Grecia e Italia ovviamente nei paesi più esposti. C'è anche da dire che nella realtà la realtà dei migranti aveva già superato Dublino, perché questi prendono e se ne vanno verso il nord e difficilmente ovviamente si possono fermare. È evidente che a questo punto la legislazione deve adeguarsi, deve seguire e fotografare la realtà in qualche modo, una realtà dei fatti che né muri e né male politiche possono gestire, direi mal gestire fino adesso. Ma torniamo a occuparci di Serbia, perché a questo punto il timore di alcuni è che in Serbia la situazione diventi difficilmente gestibile. È un paese piccolo, con zone profondamente depresse dal punto di vista economico e che non è assolutamente abituato a gestire un fenomeno come questo. Abbiamo ritrovato allora Radoš Đurović, che è il direttore di una piccola ONG che si occupa soprattutto di richiedenti asilo, ha sede a Belgrado. A lui abbiamo chiesto come sta cambiando la situazione in Serbia. C'è il rischio che diventi un grosso campo profughi, seppure temporaneo, nei Balcani? Sentite. Sì, la Macedonia ha permesso alle persone di passare e queste stanno arrivando a migliaia in Serbia. Ma con la costruzione del recinto è possibile che in futuro la maggior parte delle persone rimarranno bloccate per diverso tempo in Serbia, in special modo nelle zone di confine. Adesso le persone riescono ad attraversare il confine facilmente, quindi si stanno muovendo velocemente, ma ogni giorno ci sono persone che non riescono ad attraversare il confine o a rimanere in Ungheria e vengono rimandate in Serbia e tentano di nuovo di attraversare. Ancora non si è formata una situazione a collo di bottiglia, non ancora. Il muro al confine non è ancora stato completamente costruito, ma in futuro, con il dispiegamento di circa 2.000 militari e il completamento del muro, ci potrebbero essere grossi problemi per i rifugiati che rimarranno a lungo qui in Serbia. E questo era Radoš Đurović da Belgrado alla sua Asylum Protection Center, è una ONG che da anni segue il flusso migratorio in Serbia. La seconda domanda per lui: con il dispiegamento dell'esercito al confine da parte dell'Ungheria, la situazione per i migranti potrebbe peggiorare o no? Sentite. Si potrebbe arrivare alla stessa situazione vista al confine tra Grecia e Macedonia due giorni fa, con un gran numero di rifugiati che proveranno a entrare in Ungheria, ma verranno stoppati con la forza o forse con lacrimogeni. Ma una situazione del genere potrebbe attirare l'attenzione dell'opinione pubblica europea, che credo sia contro la legge. Ognuno ha il diritto di lasciare il proprio paese se perseguitato, entrando in altri territori. Questa è anche una delle regole di Schengen. E chiaramente esiste un piano legislativo internazionale che si tenta ovviamente di riconoscere, poi esistono però realtà locali che la cui reazione può essere difficilmente prevedibile o a volte può essere difforme, come dire, dal dettato internazionale. Con il deterioramento della situazione al confine tra Serbia e Ungheria, qual è la reazione di sindaci e popolazioni delle quelle piccole città e paesi che sorgono al confine? Sentite. La situazione è complicata perché molti degli abitanti di queste zone sono favorevoli al passaggio di queste persone, perché capiscono i loro problemi. Ma dall'altra parte i politici che operano nelle aree di confine cercano di conquistare voti e non capiscono i bisogni e la storia di questi migranti. Così alcuni dei sindaci o degli amministratori di queste piccole città sono xenofobi e razzisti e in alcuni casi abbiamo registrato un aumento degli annunci criminali alla polizia che testimoniano la crescita di xenofobia e razzismo. E questo era sempre Radoš Đurović dell'Asylum Protection Center da Belgrado. Adesso facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire l'informazione finanziaria e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta. Questo è Nessun Luogo Lontano, seconda pagina. Stiamo parlando e stiamo raccontando ancora una volta della rotta balcanica dell'immigrazione, quella che da Siria, Turchia, Grecia, Macedonia arriva poi in Ungheria, oramai un po' meno vista la costruzione del muro, e poi su a nord, Austria e Germania, quella Germania che ha garantito agli 800.000 richiedenti asilo previsti per quest'anno, i siriani almeno, appunto l'asilo politico, infrangendo nei fatti quel regolamento Dublino 2 che imporrebbe invece ai primi paesi toccati dai migranti di espletare le richieste di asilo. Rotta balcanica assai snobbata soprattutto dai media almeno fino all'anno scorso, ma di crescente importanza. Ormai la porta principale dell'ingresso in Europa è proprio quella. E un ruolo importante lo sta giocando in queste ore, lo giocherà in questi giorni, in queste settimane, sicuramente la Serbia, vera e propria cerniera all'interno dei Balcani. Abbiamo sentito Radoš Đurović, che è direttore dell'Asylum Protection Center, un ONG di base a Belgrado, al quale abbiamo chiesto, fra le altre cose, quanto Belgrado, la capitale, sia toccata da questo nuovo flusso di migranti. Sentite che cosa dice. Le persone passano da Belgrado molto velocemente, per poche ore o pochi giorni. Le si trovano nelle stazioni o negli alloggi privati, negli ostelli o in mano ai trafficanti. Ma molte persone arrivano e passano molto velocemente. Fino ad adesso la maggior parte delle persone non rimane per più di un paio di giorni. Puoi vedere continuamente circa un migliaio di persone nell'area urbana, senza che siano a stretto contatto con i cittadini, ma nel distretto di Belgrado, lontani dagli occhi del pubblico. E intanto al 349-238-6666 iniziano ad arrivare un po' di commenti. C'è Daniele da Treviso che dice: all'Ungheria non interessa nulla dei siriani, ma col muro ha accentrato il proprio obiettivo, che è non avere migranti sul proprio territorio. Il problema è che, a sentire fonti sul posto in territorio serbo, i migranti si starebbero già organizzando per arrivare in Ungheria comunque, ma passando dalla Croazia. E come diceva inizio trasmissione, il che richiede semplicemente più tempo, più chilometri, più fatica, più pericoli e più soldi per i trafficanti di migranti, se e quando coinvolti. Ma proseguiamo nell'analisi, in particolare incentrata sulla Serbia, questa cerniera nella rotta balcanica, sempre con Radoš Đurović. L'ultima domanda per lui è, tocca proprio il punto, si prevede che la costruzione del muro sia ultimata, lo dicevo, in questi giorni. I migranti stanno pensando a vie alternative per raggiungere l'Europa centrale. Sentite che cosa risponde Đurović. La maggior parte dei rifugiati sta cercando di entrare direttamente in Ungheria, quindi molti di loro stanno provando a tagliare il recinto per varcare il confine. Questo è quello che sta accadendo oggi. La maggior parte delle persone entra così in Ungheria, anche se la maggior parte del muro è stata costruita. D'altra parte è prevedibile che molti di loro decidano di cambiare rotta per raggiungere le loro destinazioni, magari attraverso la Croazia o la Romania. Ma adesso questo non è così ovvio, perché non c'è ancora una grande concentrazione di persone al confine. E queste vogliono entrare in Ungheria perché è l'ultimo confine prima dell'area Schengen. Entrare nell'area Schengen vuol dire potersi muovere liberamente verso la Germania, la Svezia e altri paesi. Scegliendo la Croazia si trovano duri controlli al confine, fiumi da attraversare, controlli durante i quali ti vengono prese le impronte digitali. Quindi ci sono più confini e più competizione per entrare in Croazia e proseguire verso gli altri paesi. Stessa cosa per la Romania. E ancora una volta lasciatemi ribadire che più confini, più fiumi, più controlli di polizia è purtroppo un additivo, è una benzina incredibile per le reti dei trafficanti di migranti, che chiedono centinaia di euro per ogni passaggio di frontiera, ed è un business che non si può assolutamente ignorare. Questa era la pagina dedicata alla rotta balcanica, ancora una volta, ma ci tocca, era sulle prime pagine dei grandi giornali internazionali e lo sarà ancora nei prossimi giorni. Adesso voltiamo pagina e vi ricordate che qualche puntata fa di Nessun Luogo Lontano vi abbiamo raccontato di quel processo di pace in Sud Sudan e con quel presidente di Giuba, Salva Kiir, che non aveva voluto firmare il peace agreement con gli accordi di pace, con Machar, col leader dei ribelli. Ebbene, sentite, lo ha fatto, ha firmato. We'll sign this document, but I warn you, you regional leaders, do you stand with us in the implementation? Otherwise, we may spoil it if it is left to us. E se non fosse che stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di decine di migliaia di morti e di sfollati e di una guerra civile che dura 2 anni, questa sarebbe la sceneggiatura di un film surreale. Salva Kiir si era preso delle ore, dei giorni per firmare, avevano firmato tutti i contendenti, lui si è preso i documenti e ha detto: ci devo pensare. Poi torna al tavolo delle trattative e mentre firma dice: guardate, io firmo, però vi lancio un avvertimento, ho ancora delle riserve. Purtroppo sono segnali, come dire, non incoraggianti su quanto la tregua in Sud Sudan possa mantenere. Naturalmente è una cosa che ci auguriamo tutti. Siccome il Sud Sudan non è argomento trattato molto spesso dai media, è utile ricapitolare come si è arrivati a questo punto. È il paese più giovane di tutto il continente africano. Il Sud Sudan nasce nel luglio del 2011, a seguito di un referendum in cui il 99% della popolazione si è espresso in favore della completa indipendenza dal Sudan. Nonostante l'abbondante presenza di petrolio, l'elemento cardine della sua economia, il giovane Stato rientra nel numero delle nazioni meno sviluppate al mondo. Su 11 milioni di abitanti, il tasso di alfabetizzazione raggiunge appena il 27%. La storia del Sudan prima della secessione è segnata dal perdurare di conflitti interni, generati da divisioni sia etniche che religiose. L'indipendenza del Sud Sudan non ha però significato la conclusione delle violenze. La crisi attualmente in corso è esplosa nel dicembre del 2013, quando il presidente sudanese Salva Kiir ha accusato il suo ex vicepresidente Riek Machar di un complotto ai suoi danni. Non è chiaro se un colpo di Stato fosse effettivamente in atto, ma ciò che è certo è che il conflitto politico non ha tardato a trasformarsi in un nuovo conflitto etnico. Kiir appartiene infatti al gruppo etnico più numeroso del paese, i Dinka, mentre Machar ai Nuer, secondi per numeri. L'esercito si è spaccato, dando così inizio a una sanguinosa guerra civile. Il 22 luglio 2015, Human Rights Watch ha denunciato i continui crimini di guerra e le violenze, di cui le forze governative sudanesi si stanno rendendo responsabili, anche a danno dei civili. Ad oggi, circa 2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre i numeri dei morti continuano ad aumentare. Questa è la sintetica fotografia del più giovane stato africano e degli ultimi rivolgimenti storici. Chissà poi davvero tra qualche decennio che cosa scriverà nei libri di storia di questa avventura, che non è nata certamente sotto i migliori auspici, per tutta una serie di problemi, non solo di rivalità tribali ma anche di ricchezza di risorse, tutti fattori, elementi e dinamiche che conosce molto bene il prossimo ospite, che reintroduco con grande piacere, che è padre Giulio Albanese, missionario comboniano, direttore della rivista Popolo e Missione. Padre Giulio, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Salve a tutti gli ascoltatori. Padre Giulio conosce molto molto bene il Sudan e il Sud Sudan, e adesso con lui entreremo meglio nelle dinamiche, e soprattutto la domanda chiave che tutti si fanno è quanto durerà questa pace. Adesso ci sono alcune ore per attuare realmente il coprifuoco, da lì in poi vedremo appunto se la pace dispiegherà i suoi effetti. La guerra invece ha dispiegato i suoi, e chi è lì a curare i sintomi e le ferite di questa lunga guerra civile durata 2 anni è fra gli altri Medici con l'Africa, QAM. Lavorano in Sud Sudan dal 2006. Abbiamo raggiunto Valerio Grannello, che è coordinatore dei progetti Medici con l'Africa, QAM in Sud Sudan. A lui abbiamo chiesto una storia emblematica che riassuma in qualche modo le difficoltà anche del loro lavoro durante la guerra civile. Sentite che cosa dice Valerio Granello. Teniamo conto che appunto proprio nell'ospedale in cui mi trovo, nell'ospedale di Chubut, poco tempo fa c'è stata una sparatoria che rientra nel senso più ampio del conflitto, proprio perché il conflitto ha portato purtroppo ad armare chiunque, civili compresi, per cui se fossi qui anche solo camminando all'interno del villaggio in cui mi trovo potresti notare questa ampia presenza di armi. Questo comporta ovviamente che ogni tipo di regolamentazione dei conti porti all'uso della violenza estrema. E appunto giusto 2-3 settimane fa c'è stato un caso di dei militari che si sono scontrati appunto tra di loro. Questo ha portato ovviamente a ricevere questi feriti, e il personale del QAM assieme a quello dell'ospedale hanno dovuto farne carico, ma questo ovviamente ha portato ad una presenza molto importante di militari all'interno del compound dell'ospedale, generando del panico all'interno della, dei pazienti, quindi donne e bambini che comunemente vengono curati in questo ospedale. E questo ovviamente comporta, vorremmo il più possibile evitare queste situazioni, perché naturalmente già è difficile cercare a livello culturale di far capire a queste persone l'importanza di accedere a dei servizi sanitari di qualità, e ovviamente se non percepiscono la possibilità di essere sicuri nell'accedere a questo servizio, poi questo rende il nostro lavoro ancora più difficile, per cui speriamo che con questo cessate il fuoco effettivamente comporti anche ad un progressivo disarmo della popolazione civile, e quindi anche a capire che le dispute, qualsiasi diverbio, si può risolvere anche senza l'uso delle armi. Questa è la Valerio Granello, coordinatore dei progetti di Medici con l'Africa QAM in Sud Sudan, che ci ha raccontato una storia che ci dà immediatamente la dimensione anche della fragilità possibile di questa tregua. Siamo con padre Giulio Albanese, che prego di pazientare un attimo, andiamo sulle strade italiane, sentiamo che traffico che fa, e poi di nuovo nessun luogo sarà lontano. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ritrovati a Nessuno Ve Lontano, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. L'ultima pagina è dedicata al Sud Sudan, con questa firma degli accordi di pace con i ribelli da parte di Salva Kiir. Con padre Giulio Albanese iniziamo intanto a commentare questa firma, e soprattutto se questa tregua può reggere. Padre Giulio. Come dicevo la volta scorsa, non ho la sfera di cristallo tra le mani, ma certamente se Salva Kiir ha accettato di firmare perché ci sono state pressioni internazionali, soprattutto da parte delle Nazioni Unite, ma poi anche il Dipartimento di Stato americano. In particolare gli statunitensi hanno fatto capire chiaro e tondo a Salva Kiir che continuare a combattere significherebbe poi essere sottoposti a pesanti sanzioni. Il problema di fondo però qual è? È che in effetti il diverbio personale tra Salva Kiir da una parte e Riek Machar dall'altra rimane sostanzialmente irrisolto. Dunque, francamente, faccio fatica ad immaginare come questi due personaggi, due antagonisti, riescano, come dire, ad andare d'accordo e a mettere in piedi un governo di unità nazionale. Ma questo soprattutto per un motivo, perché inutile nasconderselo, attualmente nel Sudan meridionale non vi sono forze politiche degne di questo nome. Al di là del fatto che esiste questo movimento, l'MPLA, che sarebbe il movimento politico dell'SPLA, poi di fatto c'è stato uno scisma, Riek Machar ha deciso di andarsene per conto proprio, ma la verità è che oggi, se parliamo di forze politiche in campo, dobbiamo far comunque riferimento a schieramenti che hanno una forte valenza etnica. Sì. E direi che questa rappresenta, come dire, i latini direbbero la vexata e tormentata questio, il grosso problema da risolvere. Padre Giulio, stia con noi, perché andiamo a sentire ancora la testimonianza dei medici, di Medici con l'Africa di QAM, che hanno lavorato in questi due anni di guerra civile. La loro missione è soprattutto bambini, donne incinta, quindi reparti neonatali, eccetera. Però ovviamente con la guerra si vanno a curare anche altri pazienti, come avete sentito dalla prima testimonianza. A Granello ho chiesto un bilancio di questi due anni di guerra civile, sentite. Beh, allora, innanzitutto l'accordo di pace è stato firmato dal Presidente solo ieri, e adesso ci sono 72 ore per il cessate il fuoco e tutta una serie di implicazioni a livello politico per cercare di evolvere in questo cammino di pace. Ovviamente in questi due anni la situazione è molto peggiorata in termini di perdite di vite umane a livello umanitario, proprio perché il paese si è praticamente diviso in due, con 3 dei 10 stati in guerra. E Medici con l'Africa Qua mi sta cercando di lavorare all'interno del sistema sanitario nazionale per cercare di migliorare la situazione. Ovviamente fare programmi di sviluppo in un contesto d'emergenza è comunque comporta una grande difficoltà, ma stiamo cercando di fare il nostro meglio. Abbiamo un buon rapporto con il Ministero della Salute degli stati in cui lavoriamo. Naturalmente ci sono molte difficoltà, sia a livello logistico, di mobilità, sia a livello di staff locale qualificato con cui lavorare, ma il QAM è qui ormai da quasi 10 anni e sta cercando di fare del suo meglio, ovviamente in un contesto che è in continua evoluzione, e speriamo che effettivamente questo accordo di pace possa aprire la strada ad una reale fase di sviluppo, che di fatto si è un po' interrotta con quanto è successo nel dicembre 2013. Sera Valero Granello di Medici con l'Africa QAM in Sud Sudan, ma siamo anche con padre Giulio Albanese, missionario con Bonano e direttore della rivista Popoli e Missione, al quale vorrei rivolgere una domanda politicamente scorretta, per cui mi può anche bacchettare, padre Giulio. La società sudsudanese è una società violenta? La violenza che c'è stata in questi 2 anni è stata condannata da molti, sono stati registrati episodi, crimini di guerra, utilizzo di bambini soldato, insomma, purtroppo un compendio di orrorifico. Che tipo di società è quella sud-sudanese? È una società in gran parte dedita alla pastorizia, con tradizioni ancestrali, che improvvisamente, per una serie di ragioni, si è trovata a vivere nel mondo villaggio globale, con tutto quello che questo comporta. Ciò ha determinato innanzitutto e soprattutto una forte circolazione di denari, soprattutto liquidi, e noi sappiamo che purtroppo il denaro in questi casi genera corruzione, malaffare e quant'altro, e spesso comporta anche violenze a non finire. Però a mio avviso bisognerebbe essere, come dire, anche avere il coraggio, l'onestà intellettuale di capire che questo scenario subisce anche forti condizionamenti ad extra. Sì. A me fa piacere che le Nazioni Unite, che gli Stati Uniti dicano che questi signori devono smetterla di fare i cattivi, di litigare, però è anche vero che in tutti questi anni purtroppo il Sudan meridionale, in particolare in questi ultimi 20 mesi, i due contendenti hanno ricevuto aiuti finanziari a non finire dai cosiddetti poteri occulti, poi occulti per modo di dire, perché per esempio la Cina ha dato aiuti soprattutto militari al governo di Giuba. Insomma, quello che voglio dire è che se da una parte è vero che tutti chiedono la pace, perché poi la pace è importante anche perché il paese possa raggiungere un livello di sostenibilità e di sviluppo degni di questi nomi, di queste considerazioni, dall'altra è anche vero che purtroppo, inutile nasconderselo, ci sono fattori esterni che spesso, anziché aiutare, acuiscono i problemi. Penso soprattutto al business delle armi e al fatto che comunque in ogni caso c'è sempre qualcuno che vorrebbe prendere il sopravvento. Inutile nasconderselo, il Sudan in generale, ma in particolare il Sud Sudan, rischia di essere uno dei tanti banchi di prova di quel contenzioso che c'è tra i grandi giganti, Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra, soprattutto per il controllo dell'oro nero, del petrolio. Ecco perché io credo che questi signori, le grandi cancellerie, i grandi potentati internazionali devono stare molto attenti a non giocare col fuoco. Grazie mille a padre Giulio Albanese, missionario combaniano e direttore della rivista Popoli e Missione. Padre Giulio, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Questa era la pagina dedicata al Sud Sudan. Ho ancora tempo di leggere un paio di sms che ovviamente sono ancora riferiti al tema forse più vicino a noi, che è quello dell'immigrazione. C'è chi dice che l'Ungheria sì, sta dando lezioni. Io non sono assolutamente d'accordo. Come è stato per la Macedonia, erigere quel muro e schierare l'esercito è una lezione di che cosa, mi domando io. I migranti passeranno comunque passando dalla Croazia o dalla Romania e si ritroveranno sul suolo ungherese. Quindi grande dispendio di energie, militarizzazione del territorio, per cosa? Stiamo parlando comunque di rifugiati, di siriani, stiamo comunque parlando di esseri umani. Questo non dovremmo mai dimenticarlo. E poi c'è chi apre un tema che bisognerebbe dedicare un'intera stagione di Nessuno Quel Lontano. Dovremmo fare 36 puntate solo su questo. Salvini ha ragione, siamo invasi e credo che siano i governanti degli stati che pagano chi conduce i migranti in Europa. Questa è una colonizzazione moderna. Ma provo a smontare questa cosa in 30 secondi. Non siamo invasi perché bisogna guardare i numeri, e i numeri non sono quelli di un'invasione, perché 200.000 arrivi, e la maggior parte di essi vogliono andare in Nord Europa, su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, non è assolutamente un'invasione. Nell'Unione Europea siamo 500 milioni di abitanti, quindi 200.000 arrivi sono una goccia. In Italia al momento gli immigrati sono l'8% della popolazione, quindi non è assolutamente un'invasione. Che siano i governanti degli stati che pagano chi conduce i migranti in Europa, io non capisco chi possa pagare i migranti. I migranti non sono pagati né dalla Siria di Assad, né dalla Tunisia, né dall'Afghanistan, ma pensate mai se questi governanti pagano i migranti. Purtroppo è il contrario, i migranti pagano i trafficanti di uomini per arrivare in Europa, perché l'Europa non dà una risposta. Titoli di coda, via! Con i quali ringrazio Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione, Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo il live da Expo sabato 5 ore 20, vi aspetto con l'orecchio alla radio oppure lì di persona. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.